cenere. È belle, ma del mio platano amato, erre voi, risplende il fato. Tuoni lampi e procelle, non voltraggino mai la cara pace, né giunga profanarvi ostro rapace. Oh, dude!